fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazze, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento e sono in compagnia della sposa e due amiche o testimoni? Amiche. Ci diciamo i nomi, che dite? Alessia, che sono la sposa. Jessica. Francesca. Perfetto, siete stupende ragazze. Grazie. Allora, vi vedo più lucide di tutti gli altri, sì. Lo ammetto, devo dirlo. Vogliamo godersela. Ma è giusto così. Così che... domani vi ricordate di tutti i matti che avete incontrato stasera al convento. Che ce ne sono una marea, secondo me, giusto? Sì. Non si salva nessuno. Solo noi che siamo qui dentro, esatto, ok? Che fa un caldo a morire. Ma a noi ci piace stare al caldo, noi siamo molto calienti, capito? E quando ti sposi? Il 23 giugno del 2023. Ah, quindi tra poco. Tra poco, proprio poco, poco. Siete pronte? Prontissime. Prontissime. Tutto pronto, non vedete l'ora. Immagino, sarà una grande festa. Dove ti sposi? Di dove sei? Ah, io sono di Pandina, mi sposerò a Grumello Cremonese a Villa Faitati. Ah, wow. Non conosco la zona, ma penso sia bella. Zona di Cremona. Immagino. Allora, poiché ci sono due amiche, penso che siete amiche da tanto tempo, giusto? Lei è la cugina dello sposo. Ah. E invece lei è un'amica da anni. Ok, allora l'amica da anni che conosce bene la sposa. C'è un piccolo tranello. Vogliamo sapere una dedica, un qualcosa per un augurio anche per la sposa. Ma allora, sicuramente le auguro il meglio. È stata insieme da tanto con questo futuro marito. E quindi vabbè, appunto, le auguro tutto il meglio possibile per lei. Ho passato bellissimi anni con lui e spero che ne passa ovviamente tantissimi altri e tantissime altre esperienze. E qui ci scappa la lacrimina, dai. Allora, vorrei sapere se avete qualche curiosità un po' più, diciamo, interessante da chiedere, che durante la vita normale, diciamo, non chiedete alla sposa. Vi sorge qualche domanda? Dai, cosa te lo fa fare a 23 anni? Cosa me lo fa fare a 23 anni? Giovanissima, no? Sei sicurissima di questa sicurissima cosa? Sicurissima, e me lo fa fare l'amore e soprattutto la voglia di condividere insieme tante nuove esperienze. Wow, 23 anni, mamma mia, la pelle d'oca. Io più di te sono ancora, diciamo così, nel mondo normale. No, ma siamo insieme da quasi 8 anni. Ah, vabbè, allora ci può anche stare, giusto? Va bene, dai ragazzi, io vi lascio fuori nel mondo dei matti, perché così lo chiamo, nell'arena dei matti, e vi auguro una buona serata. Grazie, tanti auguri per il matrimonio, va bene? Ciao, grazie. Un saluto, ciao ragazze.